Rotte sonore. Suoni dai percorsi migranti. Caramo e Lagi, ci hanno tante cose da dire, quindi niente, benvenuti alla seconda puntata con loro, ma alla dodicesima. Quello che è, non contiamo più, abbiamo detto, abbiamo deciso, no? Ma comunque saranno sempre le 14.30 di una domenica qualunque di dicembre, qui a Radio Storia del Capo, 94.7, 96.25. Sì, siamo ancora in compagnia di Caramo e Lagi, dico bene, perché sì, avevano tanta musica e tante cose da raccontarci e abbiamo detto no, non possiamo lasciarli andare via. Eravamo appena arrivati a capire più o meno, almeno io, nella mia ignoranza, che abitano a poco distanti, seppure in due stati giuridicamente distinti, ma il Gambia è praticamente completamente all'interno del Senegal. È uno stato che circonda il fiume Gambia, direi il classico retaggio coloniale, all'interno di un enorme stato come il Senegal, che ha la capitale Dakar, molto distante però dalla zona dove vengono questi due ragazzi, che infatti parlano la stessa lingua. Pur venendo da due stati diversi, però la Casamance è abbastanza famosa, purtroppo. Ma vabbè, quale canzone ci fate ascoltare adesso? Sì. Qual è il titolo? Esti. Ah, Esti è sì, la cantante Esti. Gambiana sì, Esti, che abbiamo ascoltato l'altra volta, se vi ricordate, della canzone, diciamo, sulla mamma, sì. No? E adesso? Qual è il titolo? Esti, All'Indomo. All'Indomo? Sì. What does it mean? Let them eat me. Let them? Eat me. If they like. Eat me? Yeah. Eat me? Yeah. Eat. Because he happened to, picchi, he happened to escape from a sickness. He get a very sickness. Uh-huh. So he happened to get up from them. Some people think that he would be even dead. So after the sickness, he woke up. He told them that let them eat me. They are witch. Ah, like witch. Talking of the witch. They are eating me, yeah. People thought that she was a witch. She was a witch. No, he tell them. He's the one who's telling people. She's telling to people that she's a witch. No, he's not a witch. He's telling the people who are witch, let them eat him if they like. So she is telling to the people that they are witch. Yeah. Okay. Yeah. And why she is asking them to beat him, to hit? Because of no. C'est parce que I mean, comme ça, ni moi fait on surtout d'aller à Cognac. Sorcier, c'est moi qui fait on surtout moi boule, quel autre cas surtout, voilà, allez, moi qui ni fait quoi mindo, macam au mindo, quel autre cas boni non moi boule. On voit là na, allez, nous comme on nous l'a fait dire, comme ça, kafa alindomo. Se pratica o fo mole mile alongo kan fara kamal ya gel nyasi odol nyamo mi alongo importance so do na faso tole comme ça c'est mon kuno ama ita dani la ita fengela no mo ita bulala no mo ka dani sa ka contre quoi wol kama in kumo fo comme ça ka vo ko alindomo o fana o fo mole kama mile alongo ya contre le dale ay fina ra ko la dale. He's talking of the thing that he have, he get, that was given to him by God, and then the talent he's having. So people, they don't like that. So he's telling them whether they like it or not. That thing is given to him by God. So he have it, and then he will be having it because of it's a natural gift. So no one can take it from him. So if you don't like that thing with him, let you eat him. Okay, yeah. So ci stai dicendo che quello che ha è come un dono dato da Dio, ma le persone non lo apprezzano, non lo vogliono. Allora lui gli dice a queste persone che non lo apprezzano, che non vogliono riconoscere questo dono che ha, beh, se proprio non mi volete, picchiatemi. E comunque è una lei, no? Sì. She's a girl. He's a boy. A boy, boy. He's yeah, a boy. He's the one we... ST. ST. He's ST. A girl. No, ST. No, no, no. Is he's a boy, boy. He's a guy. Ah, proprio. Ok, va bene. Ok, let's play it. Ah, voglio no. Merci. Ciao. Chambe chonkang, chanchorambe chonkang, dabari betema. See the mic music. Iko dinni ngoye duwele lomba duda duwa maolong. Ke badoro ne batyo ni sinjango la kunialo. Wata tenku iman dunialo. Kanan jwat ni imana lifelong. Kos tri kota smile soli kamil bedye plastic olong. Ike bunni ngotele la ike chodi ni mbino lela. Ike doku doku soto bali yalela. Nyalu olbe nyoko no barangani yolte nyoko no. Ika njube mbalo kakandika fo dimbale bensi soko no. Kana teka nkole yako no. Ite mako ila kuloko no. Ise fine fine ye fine fine. Fwede fanka fine fine. Ka kundung kundung ka kundung kundung. Fosa mato fanka kundung kundung. Lava umpeka ala dani saya la soto rapa no. Doko nkulu bali atale dolko nyama lebe sumanka. Fende mfonyi lyrics ol milka sanje kese ginkam. Baringa ala tentu. Ko super eagles fele fly kanzai. Bele kang hasulika fo puale kanzai. Jinkang alin domo Mbalo fele ala domo Ngo alin domo Nsubo fele ala domo Alse jimbo ndinkide Alin domo Abalo, abalo Ala domo Adomo, adomo Alin domo Nsubo, nsubo fele Ala domo Bare alse jimbo ndinkide Alin domo Alko ninkano kide Ala Ali Rof, Ali Sos, Ali Domo, Gani Pachal, Fonka Pachal, Ala Domo, Bari Al Sedim Wendinki, Nina Boy Sol Fele Dalukang, Dalun Dalun, Hataya Wokati Junki Kang. Jimun Jimun, Nila Matamba, Bunka, Fire, Ayun, Ninza, Ayun, and we got each other's back like the three dots on top of Saun. I ain't got time for y'all, Nime, my gana maun, Halifun baun, Asekoi, Alngata un, Wata Tenku, yesi un, Kadua, Purunga faun, Ni alay min bless, Yukwebe okosa, Iteleke buun, Dokon kulubali atale dolko nyama, Lebe sumanka, Fendem fo nyilidri sol, Milka sanje kese jinkam, Baringa ala tentu, Ko super eagles, Fele fly kanzai, Bele kang hasu, Sulika fo puale kachinkang alin domo Mbalo fele ala domo Ngo alin domo Nsubo fele ala domo Alse jimbo ndinkide Alin domo Abalo, abalo Ala domo Adomo, adomo Alin domo Nsubo, nsubo fele Ala domo Bar alse jimbo ndinkide Alin domo Alko ninkano kide Ala domo Ali Rof, Ali Sos, Alin Domo, Gani Pachal, Fonka Pachal, Ala Domo, Bari Alse Jimbo Ndinkide. Sain dunia mankwe, uliku ya siku, what goes around comes around, taku ya naku, but jamano le falinta mo jamal muka songka taku, wala na dolka five tibondi, maku ya saku, stage is my podium, al space o dina fonse loku, madendu kodunku nungko kunungaku binga dunku, modol na te tata sain non fanka ginarunga ku, bar Africa lebe o nyama nime doku nifwe se doku, dolko nkulubali ata le dolko nyama lebe sumanka, fendem fanyi, milka sanji kese Baringa ala tentu Ko super eagles fele fly kan side Bele kan asulika fo puale Katingang alin domo Mbalo fele ala domo Ngo alin domo Nsubo fele ala domo Alse jimbo ndinkide Alin domo Abalo, abalo Ala domo Adomo, adomo Alin domo Nsubo, nsubo fele Ala domo Bar alse jimbo ndinkide Alin domo Alko ninkano kide Ala domo Ali Rof, Ali Sos Alin domo Gani Pachal, Fonka Pachal Ala domo Bar alse jimbo ndinkide Ngan singol belorin kanchuk Nyal belorin kanchat Dolkan na kuoleke Brikama Boyo Allora, aspetta, aspetta. Vai. ST Alin Domo. What does it mean Alin Domo in Mandinga? Alin Domo, it means in English. Wala nyindiko comme ça Alin Domo c'est la voix de comme ça mon milliard ko ye kafnyoje be mu bidenki lalalti dal comme ça be mu santeur ti dal ya je kafnyoje makamo do sutwa e darjo do sutwa la jal ya kono imalo be iba kumin kela comme ça eta pousse la comme ça pour avancer eta pousse la pour avancer sai ka final dal dul ka foko ni mu nyama toldi ni mankeria woliyatna jal ya ko mal tel be mu jalolti mais woliyana kabra ni fodo ko alindomo. Cela veut dire milliards en quoi que boule à nous mais manque nous ama allons quoi y a contrôlé académie ou le matin. Yeah. He's talking of the people who you know they are bad to him and they see that he's getting more performance on his artist and then he's singing nice songs and people are liking him more. So that's what you know his enemies they hate. So that's why he sing this song and tell them that let them eat him. If you don't like me, let them eat me. Because, you know, anybody who is blessed by God, no one can cause it. They are blessed, no one can cause it. So if you want to cause it, you would die or you eat him. Yeah, because you cannot, the blessing he got from God, you know, you cannot stop him. You cannot stop that. Quindi nessuno può mettere in discussione il fatto che una persona abbia la grazia di Dio, perché questo è il dono, no? Il dono che si esplica appunto grazie alla grazia di Dio nel cantare così bene. Quindi è una canzone che parla dell'invidia, sì. De Agilus, dell'invidia, ma a lui comunque non gliene importa proprio niente, perché dice vabbè, potete picchiare, tanto io continuerò, niente potrà sconfiggere questo dono che ho. Potete farmi quello che volete, ma voi non avrete, io continuerò ad avere questo dono. Non mi avrete mai come... Non mi avrete mai. Voi. Potremmo tradurla così? Sì, suona quasi Tupac Shakur, ma chi lo sa. Ok, next song? The next song is yours. Thank you. kanodo kigone nanno kweo tinne siri nimta kigobe deada eyo eyo Gikobe di arikola o, gikoni lando, gikoni lando, waina no siri. Ijamvada na wale teo kire, ni manaju miro kata kukena siri. Sibo Maria Makeda, Anina Rinde Suso, Kusumbala. Falti Sabaru Labari, Mambo Jantirulu. Sempre il nostro Jaliba qui a te che canta Gianfo Giancanu Gianfo Giancanu mi stanno correggendo perché sto provando a scrivere la traslitterazione in mandinca Gianfo poi mangiamo tutto su Arcade Giancanu un bel archivio di musiche Gianfa Giancanu Gianfa Giancanu che significa amore a lunga distanza, no? Quindi Karamo e Laji di cosa stava parlando? Gianfa Giancanu Jalba kuyate wala ñine ñin dulal ho Gianfa Giancanu c'est parce que mom yalonko ya kanu comme ça kanu dal mi yalonko entre ni mo al tata fa la tanyo la fa la ku duñ tanyo bulu pour wana tata fa Gianfa tela a kanu lo mi yalonko akadimine c'est parce que il lata la kamimfo ana ka bara minna anina bo nyobul nyaminna jiko soto ala comportement na nyaminna wayati na ko ila jamfo la adiminta la pour ala la côté see this song is talking of is saying that when you happen to get love with someone and then you get far away from the person which feel because the person already used to you know your things happen to be closer to you anytime, you know. When you get far away from the person, his mind will be always on you, which means it's very painful. And then the person also should not listen to what people say, should always care the love the person have for you, and then not listening to people say what people say, because many people, do. Some people are bad. They just come and tell the person bad things for you. Don't listen to all those things. You should just consider your love to the person you have for the person. È una canzone che parla del fatto che dobbiamo sempre ascoltare il nostro cuore, no? E quindi non ascoltare le brutte cose che possono dire gli altri, è una canzone che parla della distanza, no? Che rende tutto più difficile, ma a maggior ragione ascoltando solo il nostro cuore sarà più facile diciamo superare questa distanza. È bello sentire finalmente una trasmissione con solo musiche locali e cominciavo a disperare perché ho detto beh, allora veramente tutto mondo e paese, siamo stati tutti colonizzati dalla musica FM americane, che io odio ovviamente, si sarà capito, però è bello anche vedere che c'è qualcuno che porta musica non americana, non commerciale, come si può sentire veramente in tutto il mondo. Da dove prendete le vostre musiche? How can you discover new music or from the radio, from internet? How can we discover new music? Yeah. Like which kind of music? For example, the music that you bring with here. The one we bring here. Mm-hmm. Yeah, if you... Some you friends. For me, my friends send it to me through WhatsApp. WhatsApp. Yeah, through WhatsApp. Okay. Yeah, I get them through WhatsApp because I like them and then I hear what they say. Yeah, I like the music and then I hear what they say, you know. Si sente, si sente che ascolti quello che dicono, no? Mm? So you believe your friend tastes. Hmm? You believe on your friend's tastes. What your friend likes is your It's my choice also. Nella scorsa puntata avevamo parlato del significato di humble. Hm? Per Caramo humble era la mia gente, no? Quindi quanto il tuo gruppo, quanto sia forte per te, quanto questo sia fonte di insomma, il significato di armonia e di unità si rispecchia proprio in questo. Anche per te, Regi? Se passa che tengo un buon duolo, il musico è un buon duolo, se passa che diamo facendo canu a come occasiale, a due miro fanno occasiale, mi tarda fuori in amare, diamo facendo la rec. Come diamo a fare a cuo con loro, se passa che a te hacchi lobo che tengo, a ne affana a camil mui, come sa, gli imbedami tu a diamo facendo la mia, esco se a mangi nanna. O kamala way at nago in jalwa in musico a resume le comsa abonde comsa kanumia longa a tata was sans wokon I musico in bondi wala. Yeah, he's telling his lover that, you know, when you are far from your lover, you know, he or she may think along, you think a lot because it's not easy for you to get far away from your lover. It may cause many thinking of you, but he is telling him that yet still his mind is on her. You know, let her don't listen to what people said, because you know when you are far away from your lovers, many people they come and complain such things which you know is unnecessary words, explain your bad things to the guy. But he's telling his lover that not to listen to all of them and consider what is between them. So he should not consider, you know, such things. Certo, quindi ascoltare gli amici e non considerare quelli che invece non lo sono, no? Un po' questo è il senso. Comincio a capire cosa vuol dire humble per loro. Non è roba, non l'abbiamo letto nel Cambridge o nell'Oxford Dictionary. Esatto, scusate. Mai fare questo errore, mai, soprattutto con una parola come humble. Chiedere, parlarne, no? Avete altri brani con voi? Perché questa volta un'altra cosa molto bella è che l'idea originale della trasmissione era quella che gli ospiti portassero la loro musica col telefono. A volte succede, a volte usiamo YouTube che è un po' più pratico, ma dal punto di vista tecnico, però l'idea originale è proprio quella che un passante portasse la sua musica dentro la radio. In questo caso funziona anche bene, poi vabbè, se ci mette anche WhatsApp con cui si scambiano i file, allez, diventa quasi ridondante, ma va bene ugualmente. Avete un altro brano? Do you have another song with you? Yeah, we have one song. Zakata nakati, loka lolong, kanole ndoti, kanole ndoti, yamfana, bene kanomal, hemfani nenkanimal. Kanokuliata bak, Ale la mendo fanen. Sakata na kat. Kole akuteda. Nikwe akuteda. Inenya jiyo jolo yamfa kamfa mambedia. I ain't got no choice but to beg a money. Pijaman tima misi data se felarinku. Nita la meta wai. Aketa meta wai. January, June for March. Dia dia naje badala ne resto jembe chal bahato tonya tonya kanolente no ne kanole la telale ne kanole yang fana ne kanole la telale Tenke se kanu fara soto Mundo dlado Kulan sasata ne kuya Nata ibolo yamfan kana kuya Kujama tambitan tema Ajarte kankile kema Ikema nte bedema Ne kamfa kele stress lafa Inyaye le jele Kanu kankele Fenyenka mobe chase Fenyenka mobe bed Kota kolon swake parendi Jalende serendi jarendi Problem bakune ka problem lafa Inani mbele kontele nyafa Nikata anyula zondindi wato Fabinke bridge Sali wato Nana te plele kokato Imira please kamfa kununku Smile with a beautiful face A sweet kiss sweet with a kiss Kwanda I tell you, ask my fan base. I'm taking a deep pill. Status, moment perfect. Y'all in a tone, y'all detect. It's liberty, so fear. Come on, in band. This no games. Real love. Freaklish, no love. Young fana, can I jump fana? Ne kanule. La telale. Ne kanule. Young fana. Ne kanule. Lokana jamfana o kotenke se kanu forosoto mundo dlado nela farisi ka balando messi la base ka balando niano e kanan kili niano e kanan tokili manfili wallahi sakata na kati krir ku tantal talala kanu bay talenta dalala biya bande ko bambalala asayamba ka base balaga nila bade wode Ila kuwa for day, I'm speechless. Kata nin kuyaban, kano kera nol dinjang. Fela manku muta, manku bula, kano kujahlo bulu. Mbulu mute kanan blan samba. Imbanko moto ku kwa di kula, kredi ku, wale pare kula. Ne kanule, la telale. Ne kanule, yang fana. Ne kanule. Lokana jamfana o kotenke se kanu forosoto mundo dlado Your love bubbles my heart with joy If I get you back to my missy joy It won't cure me, this stop willing me Yamfana haka to mass Kana jamfana, baby Yamwele, klana Little rap technique Tuma doma bede technique Trust your love la regi ala tak Mistake la repu manyan yakota Baby yama ni, buma bayi ni Delite tus nga mesi wal ni Hanga nori bari fi neta tus Inon rek dun tus Smell bull tell a call cost Andare yamfana haka to mass Kana jamfana Yama kema, muame Alufama Ne kanule la telale Ne kanule Mama Africa Aisha Fofana Yang fana Uncle Bala kanulu nice Ne kanule Sala sayo La telale Yesus la tiga kanu Lokana jamfana o Odumana fi Otenke se kanu forosoto Gunubani suwa glado Na kanule Amuabela kanodun Bote nyafa Ye kanu majube bake Mistake o datale Julul kanatu Ana julul firin Setani kanadun tema Nisa katana kati Beh, karam, let us to be try it. To be it. Yeah. Nakata nakati. Nakata nakati. Sì, nakata nakati. Quindi è un po' come provare a... Cioè, ognuno deve provare a seguire le proprie inclinazioni. Sì, sì. No? So you was telling us that. Yeah. Ako nga katinga kaya di kung sa wala mnyim fanati dal miyalong ko kan miyalong ka fanan mo atata kanula fanan le dal ah me antuka dal kung sa ya katinga kaya si parce ko niya doje kudola aba a katale a traile a katale fata da futaro position kone katenya onyande ne te fana yen da sacrifice o kelal ye a katay futa wolo position do c'est parce que nyonde kuma jamal ka fo ko hono yeah he's trying to be television let us try to be on it because you know people have different ideas so we have different intention in us so let us not change our intention through others' intention because you see this one he have this other intention and he is gaining something from that intention you should not consider the person just choose your intention and go and be on it you know so let no one should you know convince you and take you to his intention or you just see the person having something you just you know the thing you like it and then you want to change your intention you know which is no it's not good maybe it may affect you in future time perché ognuno è diverso ogni persona ha le proprie inclinazioni e questa canzone proprio invita ognuno a non ascoltare quello che dicono gli altri ma ascoltare soprattutto se stessi e a scegliere quella che è la propria strada secondo le proprie inclinazioni let us try to be it cioè no. Avete appena finito di ascoltare a scuola di traduzioni con Costanza e Babe. Questo per dire che anche questa puntata è arrivata alla fine. Grazie mille ragazzi di essere stati con noi. Thank you very very much. Thank you. Merci beaucoup. Ciao, grazie. E che dire? A domenica prossima, sempre alle 14:30 su Radio Città del Capo. Ciao. Ciao. Ciao.